Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni. Fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. Erano da poco suonate le 5 la mattina del 19 gennaio, quando Bessie entrò nel mio bugigattolo con una candela e mi trovò già alzata e quasi vestita. Ero in piedi da mezz'ora e mi ero lavata la faccia e preparata alla luce di una falce di luna al tramonto, mentre i raggi che si riversavano dalla stretta finestra lambivano il mio lettuccio. Era stabilito che partissi da Gateshead quel giorno, con la diligenza che passava davanti alla casetta del custode alle 6 in punto. In casa solo Bessie era in piedi. Aveva acceso il fuoco nella stanza dei bambini e adesso era lì a prepararmi la colazione. Pochi bambini riescono a mangiare quando sono agitati dalla prospettiva di un viaggio, e nemmeno io ci riuscii. Bessie, dopo avermi esortata invano a prendere 2 o 3 cucchiaiate del pane e latte che mi aveva riscaldato, avvolse qualche biscotto in un pezzo di carta e me lo mise nella borsa. Poi mi aiutò a infilare soprabito e cuffietta, si infagottò in uno scialle e uscimmo dalla stanza dei bambini. Mentre passavamo davanti alla camera della signora Reed, mi disse: «Volete entrare a salutare la signora?» «No, Bessie. È venuta lei ieri sera, quando ero già a letto e voi eravate scesa a cena. E mi ha detto di non disturbarla la mattina, né lei né i miei cugini. E mi ha anche detto di tenere a mente che mi aveva sempre trattata con bontà e perciò dovevo esserle grata e parlare di lei come si conveniva. E voi cosa avete detto, signorina?» «Niente». Ho nascosto la faccia sotto le coperte e mi sono girata verso il muro. «Avete fatto male, signorina Jane». «Invece ha fatto benissimo, Bessie. La vostra padrona non mi ha trattata affatto con bontà e mi è sempre stata contro». «Oh, signorina Jane, non dite così». «Addio, Gateshead», esclamai mentre attraversavamo l'atrio e uscivamo dalla porta principale. Ricordo ben poco del viaggio. So solo che la giornata mi sembrò di una lunghezza innaturale e che ebbi l'impressione di percorrere centinaia e centinaia di miglia. Attraversammo diverse città e in una di queste, particolarmente grande, la diligenza si fermò. Furono staccati i cavalli e i passeggeri scesero per pranzare. Mi portarono in una locanda e il conducente insistette perché mangiassi qualcosa. Ma visto che non avevo appetito, mi lasciò in una stanza enorme, con un camino da una parte e uno dall'altra, un lampadario che pendeva dal soffitto e un piccolo soppalco rosso in alto pieno di strumenti musicali. Lì rimasi ad aggirarmi per un pezzo, sentendomi un pesce fuor d'acqua e col terrore mortale che da un momento all'altro entrasse qualcuno e mi portasse via, perché credevo nei ladri di bambini. Bessie ci raccontava sempre le loro imprese quando l'ascoltavamo accanto al fuoco. Finalmente il conducente tornò. Ancora una volta fui stipata con gli altri nella diligenza. Il mio custode montò a cassetta, fece risuonare cupamente il corno e ripartimmo sferragliando sulla pietrosa strada per Lowood. Il pomeriggio si annunciò umido e piuttosto nebbioso. Quando sfumò nel crepuscolo, cominciai a rendermi conto che ci stavamo allontanando davvero parecchio da Gateshead. Non incontrammo più città sul cammino. La campagna cambiò. Ovunque guardassimo, alte colline grigie si levavano all'orizzonte. Mentre la penombra si infittiva, scendemmo in una valle buia e boscosa, e quando già tutto era immerso nell'oscurità, udii un vento fortissimo infuriare tra gli alberi. Cullata da quel suono, alla fine mi addormentai. Non mi ero assopita da molto quando l'improvvisa mancanza di movimento mi svegliò. Il portello della diligenza era aperto. Con accanto una persona che aveva tutta l'aria di una domestica, vidi il viso e il vestito alla luce dei fanali. «C'è una bambina che si chiama Jane Eyre qui?» chiese. «Sì», risposi io, e fui tirata giù di peso. Il baule mi seguì e la diligenza ripartì all'istante. Ero irrigidita per via di tutto il tempo che avevo passato seduta, estordita dal rumore e dal movimento. Mi guardai intorno cercando di raccapezzarmi. L'aria era piena di pioggia, di vento ed oscurità. Tuttavia, di fronte a me riuscii vagamente a distinguere un muro in cui si apriva una porta. La varcai con la mia nuova guida. Dopodiché lei se la richiuse alle spalle e girò la chiave. Adesso si vedeva una casa o un insieme di case con molte finestre, alcune delle quali illuminate. Imboccammo un ampio sentiero di ghiaia bagnandoci tutte e due e qualcuno ci fece entrare da una porta. Poi la domestica mi condusse attraverso un corridoio fino a una stanza col fuoco acceso e mi lasciò sola. Mi scaldai le dita intirizzite alla fiamma viva, poi mi guardai intorno. Non c'era nemmeno una candela, ma la luce incerta del focolare rivelò a intermittenza le pareti tappezzate, i tappeti, le tende, la mobilia di mogano lucido. Era un salottino, non certo elegante e spazioso come il salotto di Gateshead, ma piuttosto accogliente. Mi stavo cervellando per decidere quale fosse il soggetto di un quadro appeso al muro quando la porta si aprì ed entrò una persona che reggeva un lume. Un'altra la seguiva da presso. La prima era una donna alta, con gli occhi e i capelli scuri e la fronte alta e pallida. Era in parte avvolta da uno scialle. L'espressione era grave, il portamento eretto. «La bambina è molto piccola per viaggiare da sola», disse appoggiando la candela sul tavolo. Mi scrutò attentamente per un minuto o due, poi aggiunse: «Meglio metterla subito a letto, all'aria stanca». «Sei stanca?» «Un po', signora». «E avrai anche fame, naturalmente. Fatela cenare prima di mandarla a letto, signorina Miller». «È la prima volta che lasci i tuoi genitori per venire in collegio, piccola?» Le spiegai che non avevo i genitori. Mi chiese da quanto tempo erano morti e poi quanti anni avevo, come mi chiamavo, se sapevo leggere, scrivere, cucire un poco. Infine, mi sfiorò delicatamente la guancia con l'indice. Mi disse che sperava proprio che sarei stata una brava bambina e mi congedò insieme alla signorina Miller. La signora che avevo appena lasciato avrà avuto più o meno 29 anni, quella che mi accompagnava forse qualcuno in meno. La prima mi colpì per la sua voce, lo sguardo, l'aspetto. La signorina Miller era un tipo più ordinario, con un colorito acceso nonostante l'aria preoccupata e il passo, i modi frettolosi di chi ha sempre una quantità di faccende da sbrigare. Aveva tutta l'aria di un'istitutrice e in seguito scoprì che lo era davvero. Seguendola, passai da una stanza all'altra e da un corridoio all'altro di un ampio edificio irregolare, finché, emergendo dal silenzio assoluto e alquanto tetro che regnava nella parte della casa che avevamo attraversato, ci investì il brusio di diverse voci e di lì a poco entrammo in una stanza lunga e spaziosa, con grandi tavole d'abete, due a un capo e due all'altro. Su ciascuna ardeva un paio di candele. e seduta sulle panche tutto intorno c'era una schiera di ragazze di tutte le età, dai 9 ai 10 anni fino ai 20. Viste a quella luce fioca mi sembrarono una moltitudine, sebbene in realtà fossero non più di 80. Erano tutte vestite allo stesso modo, con abiti marroni di foggia antiquata e lunghi grembiuli di tela d'Olanda. Era l'ora dello studio, erano chine sulle lezioni per il giorno dopo e il brusio che avevo sentito derivava dall'insieme di quelle ripetizioni bisbigliate. La signorina Miller mi fece cenno di sedermi su una panca vicino alla porta. Poi, raggiungendo il capo opposto della lunga stanza, gridò: «I prefetti raccolgano i libri e li ripongano!» 4 ragazze tra le più alte si alzarono da tavoli diversi e fecero il giro per raccogliere i libri e metterli via. La signorina Miller ordinò ancora: «I prefetti portino i vassoi con la cena!» Le stesse ragazze uscirono e di lì a poco rientrarono, ciascuna con in mano un vassoio e sopra diverse porzioni di non so che cosa e una brocca d'acqua e un boccale al centro. Le porzioni vennero distribuite. Chi lo desiderava beve un sorso d'acqua perché il boccale era in comune. Avevo sete e quando arrivò il mio turno bevi anch'io, ma non toccai cibo perché l'agitazione e la fatica mi impedivano di mangiare. A quel punto mi resi conto però che la cena consisteva in una sottile frittella d'avena divisa in pezzetti piccolissimi. Finito il pasto, la signora Miller lesse le preghiere. Le classi si misero in fila per due e salirono al piano di sopra. Ormai sopraffatta dalla stanchezza, quasi non feci caso all'aspetto del dormitorio, a parte il fatto che, come l'aula che avevamo appena lasciato, era una stanza molto lunga. Quella notte avrei condiviso il letto con la signorina Miller, che mi aiutò a svestirmi. Quando fui distesa, lanciai un'occhiata all'interminabile fila di letti, ciascuno dei quali fu presto occupato da 2 persone. 10 minuti dopo, l'unica luce fu spenta e nel silenzio e nel buio totale mi addormentai. La notte trascorse in fretta. Troppo stanca perfino per sognare, mi svegliai solo una volta per le raffiche furiose del vento e la pioggia torrenziale e mi accorsi che la signorina Miller si era sdraiata accanto a me. Quando riaprì gli occhi riecheggiava il suono altissimo di una campanella. Le ragazze erano in piedi e si vestivano. Il giorno non era ancora spuntato e nella stanza ardeva solo un lumicino o 2. Mi alzai anch'io, seppure con riluttanza. Faceva un freddo terribile e mi vestii come meglio potei perché tremavo tutta. Infine attesi che si liberasse uno dei catini in mezzo alla stanza per potermi lavare, ma trascorse un bel po' di tempo perché ce n'era solo uno ogni 6 ragazze. La campanella suonò di nuovo. Ci disponemmo tutte in fila per 2 e in quell'ordine scendemmo le scale ed entrammo nell'aula fredda e fiocamente illuminata dove la signorina Miller lesse le preghiere, dopodiché ordinò a gran voce: «Formate le classi!» Seguì un gran trambusto per qualche minuto, mentre la signorina Miller continuava a gridare: «Silenzio! Ordine!» Quando il rumore cessò, vidi che tutte, a gruppi di 4, si disponevano a semicerchio davanti a 4 sedie poste di fronte ai 4 tavoli. Tutte tenevano in mano i libri e un altro più grosso, forse una Bibbia, era posato su ciascun tavolo davanti alla sedia vuota. Squillò una campanella in lontananza. Subito entrarono 3 signore. Ciascuna si diresse verso un tavolo e prese posto. La signorina Miller si accomodò sulla 4ª sedia libera, che era la più vicina alla porta, intorno alla quale erano raccolte le bambine più piccole. Fui dunque assegnata a questa classe inferiore, all'ultimo posto. Le lezioni ebbero inizio. Ripetemmo la colletta, Poi recitammo diversi brani delle scritture, cui seguì la lettura di alcuni capitoli della Bibbia, e tutto ciò si protrasse per un'ora. Quando quell'esercizio finì, era giorno fatto. Indefessa la campanella suonò per la quarta volta. Le classi furono nuovamente messe in fila e condotte in un'altra stanza per la colazione. Come ero felice all'idea di poter mangiare qualcosa. A quel punto mi sentivo quasi male per la fame, avendo mangiato così poco il giorno prima. Il refettorio era una stanza col soffitto basso, enorme e tetra. Su due lunghi tavoli erano poste due pignatte fumanti con dentro qualcosa di caldo che però, con mio grande sgomento, emanavano un odore tutt'altro che invitante. Quando i vapori del pasto raggiunsero le narici di chi era destinato a consumarlo, assistetti a una manifestazione generale di scontento. Dall'avanguardia del corteo, le ragazze grandi dell'ultima classe, si alzò un sussurro. «Che schifo, la pappa d'avena è di nuovo bruciata!» «Silenzio!» esclamò una voce. Non quella della signorina Miller, ma di una delle insegnanti delle classi superiori, una donnina bruna vestita elegantemente ma dall'aria un po' cupa che si sistemò in uno dei posti a capotavola, di fronte a una prosperosa matrona. Invano mi guardai in giro alla ricerca di quella che avevo incontrato la sera precedente. Non c'era. La signorina Miller si sedette al mio tavolo, in fondo, e una signora in età, dall'aria bizzarra e probabilmente straniera, l'insegnante di francese scoprì in seguito, occupò il posto corrispondente all'altro tavolo. Recitammo una lunga preghiera di ringraziamento e cantammo un inno. Dopodiché una domestica portò del tè per le insegnanti e cominciammo a mangiare. Affamata e ormai quasi sul punto di svenire, mandai giù una cucchiaiata o due della mia razione senza badare al sapore, ma una volta calmati i primi morsi della fame, mi resi conto di avere davanti un intruglio abominevole. L'avena bruciata è quasi peggio delle patate marce, perfino la fame ne è presto nauseata. I cucchiai si muovevano lentamente. Vidi le ragazze assaggiare il cibo e cercare di inghiottirlo. Ma nella maggior parte dei casi lo sforzo venne subito abbandonato. La colazione finì e nessuno aveva mangiato. Dopo aver reso grazie per quello che non avevamo avuto e dopo aver cantato un altro inno, uscimmo dal refettorio per dirigerci in aula. Io ero una delle ultime e passando accanto ai tavoli vidi un insegnante prendere una delle pignatte e assaggiare la pappa. Poi rivolse un'occhiata alle altre che la ricambiarono con un'espressione disgustata e una di loro, quella robusta, bisbigliò: «Che broda immonda, è una vergogna!» Trascorse un quarto d'ora prima che riprendessero le lezioni, durante il quale, in classe, regnò un'incontenibile baraonda. In quel lasso di tempo, a quanto pare, era permesso parlare ad alta voce e liberamente e le ragazze ne approfittavano. La conversazione era tutta incentrata sulla colazione, di cui tutte, senza eccezione, dissero peste e corna. Poverine! Era quella la loro unica consolazione. Adesso la sola insegnante presente in aula era la signorina Miller ed era circondata da un gruppo di ragazze grandi che parlavano animatamente con espressioni serie e contrariate. Sentì pronunciare il nome di Brocklehurst e nell'udirlo la signorina Miller scosse il capo con disapprovazione. Tuttavia non fece alcuno sforzo per contenere l'ira generale. Senza dubbio la condivideva. Un orologio nell'aula batté le 9. La Miller si allontanò dal gruppo delle grandi e mettendosi in mezzo alla stanza gridò: «Silenzio! Ai vostri posti!» Fu ristabilita la disciplina. Nel giro di 5 minuti la marmaglia fu messa in riga e un relativo silenzio prevalse su quella babele vociante. A quel punto le insegnanti delle classi superiori tornarono alle loro postazioni. Eppure tutte sembravano in attesa di qualcosa. Disposte sulle panche ai lati della stanza, le 80 ragazze sedevano dritte e immobili. uno strambo schieramento, tutte coi capelli tirati sobriamente all'indietro e senza nemmeno un ricciolo, in abiti marroni, accollati, e uno striminzito fichu intorno alla gola, piccole tasche di tela d'Olanda legate sul davanti della veste che fungevano da borsa per il cucito, e tutte, oltretutto, con calze di lana ai piedi e scarpe da contadina chiuse da fibbie d'ottone. Più di 20 di queste creature così infagottate erano ragazze ormai cresciute o piuttosto giovani donne. E quella tenuta stava male a tutte e dava un'aria bislacca perfino alle più graziose. Le stavo osservando e di tanto in tanto davo un'occhiata anche alle insegnanti, nessuna delle quali mi piaceva particolarmente, perché la matrona era un po' rozza, la bruna piuttosto truce, la straniera arcigna e grottesca, e la signorina Miller, poverina, era paonazza, con la pelle segnata e l'aria stremata. Le stavo osservando quando tutta la scolaresca scattò in piedi all'unisono, come mossa da un'unica molla. Che cosa succedeva? Non avevo sentito ordini. Ed ero perplessa. Prima che fossi in grado di raccapezzarmi, le allieve erano tornate a sedersi, ma poiché gli occhi di tutte erano ora girate verso lo stesso punto, i miei seguirono la direzione generale e incontrarono il personaggio che mi aveva accolto la sera prima. Era ferma in fondo alla lunga stanza, accanto al focolare, poiché c'era un caminetto a un capo e all'altro del locale, e con un'espressione grave esaminava in silenzio le due file di allieve. La signorina Miller le si avvicinò, apparentemente per farne una domanda, e dopo aver ricevuto la risposta tornò al suo posto e disse con voce stentoria: «I prefetti dell'ultima classe portino i mappamondi!» Mentre l'ordine veniva eseguito, la signora consultata risalì lentamente la stanza. Penso di avere una tendenza naturale all'adorazione, perché ricordo ancora il senso di ammirata soggezione che provai mentre seguivo con gli occhi i suoi passi. Vista adesso in piena luce, era una bella donna, alta, ben fatta. Gli occhi castani, circondati da una linea sottile di lunghe ciglia con una luce benevola nelle iridi, mettevano in risalto il pallore della fronte ampia. I capelli, di un castano molto scuro, erano arricciati sulle tempie secondo la moda del tempo. Anche la foggia dell'abito era quella comune di quegli anni. E un orologio d'oro. Gli orologi non erano certo diffusi come lo sono ora. Era fissato alla cintura. Il lettore aggiunga, per completare il quadro, lineamenti delicati, una carnagione pallida ma luminosa, un aspetto e un portamento regali, e avrà un'idea chiara, per quanto possano conferire le parole, dell'aspetto esteriore della signorina Temple, ovvero di Maria Temple, come appresi in seguito dopo aver visto il nome scritto sul libro di preghiere che mi affidò perché lo portassi in chiesa. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.